Allora, siamo qui insieme a Elena Di Gioia per darvi un'informazione rispetto alla nostra collaborazione assieme, perché Elena ha deciso di scommettere sulla propria vita professionale e artistica dopo questi 2 anni e mezzo di mandato assieme. È un rilancio molto importante e coraggioso quello che lei vuole mettere in campo con progetti importanti che in parte mi ha raccontato, e quindi noi abbiamo una lunga amicizia, una lunga collaborazione personale e politica. In questi anni abbiamo costruito il programma di mandato, abbiamo lavorato per fare di Bologna una città nella quale la cultura fosse speranza, partecipazione e si allargasse su tutto il territorio metropolitano. La voglio ringraziare per questo, perché insieme a lei ho avuto modo di portare la cultura in tutti i comuni dell'area metropolitana con il sostegno della tassa di soggiorno e dell'amministrazione comunale di Bologna. Ci tengo in particolare su questo aspetto a significare l'importanza della nostra collaborazione in questi anni, perché prima come direttrice artistica di diversi progetti teatrali, poi come politica insieme a me, abbiamo preso in mano i distretti culturali, sostenuto sindache, sindaci, assessori, assessore che nell'area metropolitana cercavano un sostegno. Lo abbiamo fatto in particolare in questo mandato, tornando a cercare anche gli artisti, gli intellettuali, giovani, meno giovani, bolognesi e internazionali. Abbiamo particolarmente puntato a dare voce agli artisti che vivono nella nostra città o l'attraversano per un periodo. Abbiamo portato gli artisti di nuovo a parlare nel Capodanno, nei festival, nelle rassegne, e il lavoro che abbiamo fatto assieme continuerà, perché io ho deciso di trattenere la delega almeno fino alla fine dell'anno in corso, e quindi poi deciderò cosa fare attorno alla giunta, diciamo, entro la fine dell'anno. Però non cambierà l'impostazione delle politiche culturali, della visione delle politiche culturali che come città di Bologna vogliamo portare avanti. Abbiamo ottenuto risultati importanti insieme durante il Covid, quando ho lavorato anche come assessore alla cultura, nelle battaglie che abbiamo fatto per il sostegno al lavoro degli operatori culturali e degli artisti. Abbiamo riunito tutti gli assessori alla cultura d'Italia, abbiamo ottenuto dall'allora ministro Franceschini che ci fosse un impegno sul lavoro discontinuo, sulla protezione dei lavoratori della cultura, e quando Elena ha ricevuto le deleghe da me come sindaco abbiamo subito convocato i sindacati e gli operatori culturali per continuare quel lavoro. E credo che se oggi una città dove si può lavorare nell'ambito culturale lo si può fare sostenuti dall'amministrazione, sostenuti dal mondo del pubblico, perché Bologna ha saputo in questi anni rigenerare anche il pubblico grazie a un lavoro importante attorno anche al welfare culturale e al protagonismo dei cittadini e delle cittadine. È un lavoro corale, collettivo, non è soltanto ovviamente un lavoro mio e di Elena, è un lavoro di chi ogni giorno porta avanti le nostre istituzioni culturali, i festival del contemporaneo, le associazioni, il mondo del terzo settore, i luoghi della cultura. Crediamo che oggi Bologna sia una città forte dal punto di vista culturale, ma allo stesso tempo una città che ha bisogno anche di nuove sfide, di un rilancio nell'ambito della scena indipendente, della cultura critica, del protagonismo degli artisti. Continueremo a lavorare assieme, perché comunque Elena non va via da Bologna, ma anzi scommette sul suo lavoro artistico e professionale. Ci sarà modo di continuare questo cammino assieme in un'altra veste, non più quella di delegata alla cultura, ma di artista, di operatrice culturale, di direttrice, curatrice di progetti. Per cui sicuramente questa sarà un'estate che lei si prenderà di ripartenza, e poi sarà lei poi a raccontarvi il percorso che l'attende. Per il resto la voglio ringraziare, perché impegnarsi in politica e nel lavoro dell'amministrazione è una cosa per la quale occorre un grande sacrificio personale. Lei l'ha fatto con grande umiltà e disponibilità, lo ha fatto inserendosi in una squadra ampia con un ruolo metropolitano, non solo comunale. Per gli artisti e gli operatori culturali è sempre molto complicato entrare e uscire dalla politica. Penso che Elena non esca dalla politica e dall'impegno civico, perché questo non riguarda solo i ruoli, ma in generale a Bologna per fortuna siamo una comunità dove ci si può impegnare in politica in tanti modi, ma credo che esca dall'amministrazione assolutamente a testa alta, con il rispetto di tutto il mondo culturale e sicuramente del mio, che sono qui anche a ringraziarla pubblicamente. Parto esattamente anche da questo finale del sindaco Lepore per inanellare anche intanto il mio grazie a lui per quella fiducia, come ricordava, anche per quel riconoscimento di 2 anni e mezzo fa che mi ha voluto dare, e di questo percorso straordinario, bellissimo e meraviglioso, lo voglio dire, che questi 2 anni e mezzo di impegno intenso, dedito appunto totalmente, come poi molti di voi anche mi conoscono, e anzi vi ringrazio perché avete seguito anche come informazione stampa, anche puntualmente, i tanti anche appuntamenti, anche i confronti che abbiamo avuto. Ecco, è stato per me un periodo appunto meraviglioso, ricco di soddisfazioni, e dopo 2 anni e mezzo appunto di questo impegno da delegata alla cultura del Comune di Bologna e della città metropolitana, ho sentito l'urgenza, proprio la necessità di tornare, di rilanciare con forza il mio profilo professionale precedente a questo incarico, e quindi di tornare appunto alla direzione artistica, alla cura, alla produzione da appunto direttrice artistica, curatrice di progetti culturali e artistici, come poi molti di voi sanno, è da sempre la mia vita, è da sempre la mia competenza, anche la scelta che ho operato appunto nella vita. Certamente ci torno arricchita, fortemente arricchita da questo percorso, arricchita nelle competenze, arricchita da anche quel punto di vista interno all'amministrazione, che anche per gli operatori culturali, no? È guardare, avere la doppia faccia, ecco, delle cose, e certamente avere vissuto intensamente appunto ad alta quota questi 2 anni e mezzo ha fortificato appunto e rafforzato anche le mie competenze, anche rispetto appunto alla produzione, alla gestione, all'amministrazione, a tutte quelle competenze che credo arricchiscano il profilo delle direzioni artistiche oggi più che mai.